24 di Giovanni Minoli. Buonasera, Presidente. Senta, ha incontrato Donald Trump in America e com'è andata? Lui sta bene. Sì, no, ma non è... Bella casa, clima sereno, siepi curate. Presidente Gentiloni, aspetti, no, ci dica veramente com'è andata, no? C'erano tanti temi, la guerra, la politica estera, il ruolo dell'Italia. Ma io sul ruolo dell'Italia sono stato inflessibile. Ah. Noi siamo un paese sovrano. Sì. L'Italia ripudia la guerra. Sì. E se l'America la vuole, se la faccia da sola. E certo, giusto. Noi abbiamo una dignità. Non prendiamo ordini da nessuno. Che bravo. Ha detto questo a Trump, davvero? No, l'ho detto alle siepi prima di entrare. Ma come alle siepi? Scusi, ma allora a Trump che cosa ha detto? Io? No, niente. Ma come niente? Scusi, è stato dentro con lui un'ora e mezza. Che cosa ha fatto? Le tende. Vuoi che non sia made in Italy? Oh, Gentiloni, ho ripetuto tutto quello che ha cantato la Merkel. No, sembri succubo. No, è ma che io sei guardi. Succubo? No, no, no, no, no, cosa? No, Gentiloni, sembri suo cameriere. No, che figura ci fai fare? Ma come no? Perché la Germania da sempre. Ma la Italia. Germania cosa? Cosa? Tu sei il suo cameriere? Sei il suo cameriere? No, no, no, no, guarda. Sei il suo cameriere, tu. No, no. Gentiloni, sei il suo cameriere? Sì. E allora se sì, prepara qualche caffè, qualche tramezzino. Oh, sherry, sherry. Buongiorno, allora sono loro, Trump e la Merkel, i protagonisti della nostra puntata di oggi. Ci interroghiamo, che cosa conviene fare all'Italia? Bentornati su Mix 24, buongiorno a Andrew Spannaus, giornalista, politologo, autore del libro Perché vince Trump? La rivolta degli elettori, il futuro dell'America. Ecco, buongiorno Spannaus, lei è stato uno dei pochi a predire la vittoria di Trump. Trump ha vinto, ma l'Italia, e non solo l'Italia, faticano ad accettare il fatto che alla Casa Bianca sia cambiato tutto. Perché, secondo lei? Intanto buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh, fanno fatica ad accettare il fatto che c'è un cambiamento sostanziale di quello che è la politica occidentale. Almeno c'è una richiesta di cambiamento fondamentale da parte degli elettori. Cioè 30 anni di politica che ha svuotato la classe media, troppi anni di guerre inutili e costose hanno portato al sostegno per un outsider. Ecco, ma era pronto tutto invece per la vittoria di Clinton. Questa è anche una delle ragioni per cui c'è stato questo come dire, questo shock. Certo, tutti si aspettavano una vittoria di Clinton, tant'è che anche le istituzioni si preparavano a un ritorno a una politica estera più aggressiva, invece ha vinto Trump e questo è stato un botto per tutti. Ma è difficile accettare il principio di realtà soprattutto per i media o anche per le istituzioni? I media hanno un ruolo molto forte in questo, come sappiamo hanno svolto proprio il ruolo di dirci che Trump non poteva vincere e senza però affrontare i problemi per cui in realtà aveva vinto, quello che ho fatto nel mio libro. Certo, ma le istituzioni infatti hanno la stessa, cioè dentro le istituzioni è una cosa molto simile, c'è chi, buona parte delle istituzioni non voleva vedere questo cambiamento in arrivo perché nelle istituzioni ovviamente ci sono quelli responsabili degli errori commessi. Certo, senta Spannaus, ma sarebbe logico a questo punto prendere atto e rafforzare questa alleanza invece? Ma io credo che tra l'Italia e gli Stati Uniti ci siano grandi occasioni e opportunità per collaborazione. Però, con Renzi il rapporto con gli Stati Uniti ha subito uno stop dopo la sconfitta di Clinton. Quello con gli Stati Uniti di oggi è un'alleanza che rischia? Io credo di no, se Trump riuscirà a cambiare l'orientamento della politica estera americana. Questo è fondamentale per l'Italia, cioè un maggiore focus, una maggiore attenzione su Mediterraneo, sul terrorismo e meno sulla Russia. Questa è la battaglia che Trump deve cercare di portare. Ma secondo lei è stato imprudente l'endorsement così plateale che ha fatto Renzi a Clinton, alla Clinton? Sì, secondo me sì, è stato una sorta di ingerenza nella politica interna di un altro paese che di solito è meglio evitare. È meglio evitare. C'è stata una sottovalutazione a prioristica, come dicevamo prima, della presidenza Trump. Assolutamente, e questo proprio perché c'è stata una superficialità generale nell'analisi. Non volendo, no, non volendo ammettere gli errori, per esempio dicendo che l'economia americana va benissimo, mentre per una grossa fetta del paese non va non andava benissimo per niente. Senta, Merkel e Trump però adesso sembrano divergere sempre di più, questo è un po' il focus della nostra puntata, essere su linee contrapposte, ma l'Italia può scegliere tra Merkel e o Trump? L'Italia deve scegliere, secondo me, di contare di più, di difendere le proprie ragioni. L'Italia non deve uscire dall'Europa nel senso di staccarsi e andare solo verso gli Stati Uniti, ma l'Europa deve cambiare. L'Unione Europea, come sta funzionando adesso, sta funzionando male. Non va bene, quindi... ma la cancelliera Merkel però ha detto con forza che l'Europa deve fare da sola. Lei crede a un'Europa autonoma rispetto agli Stati Uniti? No, in questo senso no. L'Europa ha tutto diritto di decidere il proprio futuro, ma il modo in cui si sta cercando di costringere i paesi europei a rinunciare alla sovranità nel nome di un progetto, onestamente, che finora non ha portato, almeno negli ultimi anni con l'euro, non ha portato a i grandi effetti positivi. Solo mi sembra per la Germania, insomma. Sì. Senta, dottor Spannausi, il professor Paolo Savona ha scritto che prima di affidare la guida di un esercito europeo, perché di questo si tratta, oramai sul terreno c'è il problema dell'esercito europeo, ai tedeschi, vista la storia, bisognerebbe pensarci bene. Lei che ne pensa? Io penso non sia solo una questione dei tedeschi. L'idea di una difesa comune soffre di tante contraddizioni. L'Italia e la Francia hanno gli stessi obiettivi. Vediamo cosa è successo in Libia qualche anno fa. Certo. Però l'idea della difesa comune è un'idea che viene da lontano, viene dal subito dopoguerra, insomma, prima addirittura della nascita della NATO. Ma penso sia un tipico caso di mettere il carro davanti ai buoi. Di nuovo, quali sono gli obiettivi strategici? I paesi che hanno un certo passato imperiale, i paesi che hanno altri obiettivi, ci sono delle differenze serie, soprattutto in un'Europa 27. Certo. Tra l'Italia, la Francia e la Polonia, insomma, ci sono differenze importanti. Che bisogna decidere dove andare, di mettersi insieme. Senta, il presidente Macron, per legarsi a quello che lei stava dicendo, si è mostrato molto attento invece alle cose che fa e che dice Trump, e questo potrebbe rischiare di portare l'Italia a essere scavalcata dalla Francia nel Mediterraneo, come è già capitato in Libia. Il rischio c'è sicuramente di altri che cercano di sfruttare le opportunità offerte dal cambiamento negli Stati Uniti. Di nuovo, per l'Italia, a mio avviso, l'Italia deve avere un ruolo importante proprio perché non ha quella stessa storia coloniale di altri paesi più negli anni recenti. Senta, ma senza gli americani chi può occuparsi della sicurezza del Mediterraneo in attesa dell'esercito europeo? L'America non sparirà, quindi l'idea che ci sarà l'isolazionismo, l'America si ritira, secondo me è un falso. Cioè, America first cosa vuol dire allora? America first significa che bisogna fare una politica estera che tiene conto degli interessi e della sovranità. Ma quello l'ha sempre fatta. L'ha sempre fatta, ma c'è stata la sovranità invece si è violata ampiamente sia dei parti degli Stati Uniti che dell'Europa negli ultimi anni con le guerre di cambiamento di regime. Senta, ma si allarga l'Atlantico secondo lei e si avvicina alla Russia di Putin per l'Europa? Ma si avvicina. Io credo che l'alleanza occidentale non sia in pericolo. È in pericolo solo se si pensa di impostare tutta la politica come antirussa, che sarebbe è un errore. Ma l'Europa certamente non è su quella linea. L'Europa non è su quella linea. Non è certamente su una linea antirussa e basta. Anzi, direi che ci sono differenze dentro l'Europa su questo. Certo. Assolutamente. C'è soprattutto la battaglia dentro gli Stati Uniti, e questo è vero. Questo è il punto. C'è chi nelle istituzioni e soprattutto nell'intelligence che vuole danneggiare Trump. Ecco, ma all'interno dell'intelligence mi sembra che negli Stati Uniti c'è una guerra spietata senza limiti di violenza. Assolutamente, è iniziato già prima delle elezioni, poi subito dopo le elezioni con tutte le rivelazioni, ma se guardiamo attentamente finora Trump non è stato accusato o i suoi consiglieri di nessun reato. Ma è una sorta di guerra civile strisciante, insomma. Purtroppo è impari in questo momento, perché tutti i media e buona parte delle istituzioni stanno da una parte. Certo, Trump è la Casa Bianca, quindi ha i suoi vantaggi, ma subisce queste pressioni e già questo crea una situazione più difficile con la Russia di quello che ma lei vede essere. Lei vede un rischio di impeachment per Trump, no? Ma il rischio c'è, nel senso che il tentativo di mettere in piedi un caso per l'impeachment c'è, e Trump ovviamente fa degli errori, sotto pressione fa degli errori. E l'errore più grave che ha fatto qual è, secondo lei? Beh, l'errore è sul rapporto con le istituzioni dell'intelligence, con l'FBI, il modo in cui ha reagito a James Comey, capo dell'FBI, lo ha esposto a queste accuse di bloccare di obstruction of justice, insomma. Senta, comunque un'indagine. Certo, comunque sul piano economico gli Stati Uniti in questo momento volano, la borsa è al massimo, la disoccupazione è al minimo degli ultimi 16 anni. Ecco, cosa dovrebbero fare le imprese italiane che vogliono in qualche modo approfittare di questo momento positivo dell'economia americana? Beh, intanto contesto la lettura, il fatto che la borsa vola non significa che la classe media americana sta benissimo. Però la disoccupazione è al minimo. Sì, negli ultimi anni i nuovi posti di lavoro creati, una buona parte, la grande maggioranza sono stati in posti di servizi e con salari più bassi che in passato. Quindi non è c'è molto da fare ancora. Quindi secondo lei, secondo lei non è vero che l'economia americana gode di un momento così positivo? No, se fosse così Donald Trump non sarebbe stato eletto di sicuro. Senta, la bilancia commerciale però parla chiaro. Nei primi 4 mesi del 2017 l'Italia, parlo del rapporto Italia-Stati Uniti, l'Italia ha esportato negli Stati Uniti 15 miliardi di dollari di beni e servizi. Gli Stati Uniti invece hanno esportato in Italia solo 6 miliardi di beni. Quindi il deficit per gli americani è di 9 miliardi di dollari. Dovremmo stare cauti e tenercelo questo vantaggio? Beh, è un vantaggio per l'Italia, è importante ovviamente, il mercato americano è fondamentale e bisogna cercare quelle aree di intervento ulteriore. Adesso se Trump davvero lancerà un programma di infrastrutture, anche questo per l'Italia potrà essere importante. Sicuramente è una questione di concentrarsi su certe filiere, certi settori dell'economia americana, non è così semplice presentarci e dire eccomi. Ah, certo, naturalmente. Lei è un consulente strategico. Che cosa consiglia allora a chi oggi vuole muoversi in uno scenario dove comunque Trump è un game changer in qualche modo? Beh, siamo in un mondo in cui certi problemi di lunga data sono usciti da sotto la superficie. Non è Trump che ha inventato questi problemi, erano presenti già prima. Cosa parla? A cosa si riferisce soprattutto? Io parlo della globalizzazione finanziaria, cosa ha fatto l'economia, parlo degli errori del cambiamento di regime. Questo significa che l'Occidente si è indebolito per colpa delle proprie politiche e ha lasciato spazio alla Cina, ad altri attori. Adesso si tratta di riconquistare le posizioni. Ma riconquistare facendo anche, essendo intelligenti, per rafforzarci sulla base della nostra storia, dei nostri principi forti. Ecco, ma lei cosa consiglia? Le chiedevo come ultima domanda, cosa consiglia a chi vuole muoversi su questo scenario ed è un imprenditore italiano? Io consiglio di mantenere, sicuramente sfruttare le opportunità che ci sono in Occidente, ma cercare di entrare anche in progetti di respiro internazionale. Grazie. 800-24-0024, numero verde, 349-238-6666, l'SMS con Mario. Ma insomma, questo Trump sottovalutato, sopravvalutato sul rischio dell'impeachment, insomma non si capisce bene. Siamo ancora nella fase della campagna presidenziale. Detto però, questo, però, esatto, lui ha uno stile di governo, diciamo così, sui generis. Certo, non c'è. Però poi se andiamo a vedere, il cambiamento è grosso ed è solo all'inizio di quello che sta succedendo. Ci sono ancora moltissimi posti da occupare nell'amministrazione americana. Bisognerà vedere che cocktail farà, insomma, qual è l'equilibrio che troverà. Io ricordo solo che Reagan divenne Reagan alla fine del suo mandato, non all'inizio. Certo. Senti, ma secondo te l'Italia, visto che oggi cerchiamo di capire se l'Italia gli conviene un po' di più gli Stati Uniti o un po' di più la Merkel, secondo te deve affidarsi davvero un po' di più alla Merkel? No. No, no. Ma, perché, noi abbiamo al telefono, non Tobia, mi convince, non ti convince la politica tedesca fino alla fine. E adesso ne parliamo con un amico, Tobia Spiller, buongiorno. Buongiorno. Corrispondente in Italia da Frankfurt Allgemein. Allora, Spiller, lei crede a un'Europa che fa meno degli Stati Uniti? Ci credi? Un'Europa che? Che fa a meno degli Stati Uniti. Secondo me sarebbe molto lontano, sarebbe molto difficile, sarebbe una grande sfida per l'Europa, ma la chiamata che ha fatto la Merkel era quella di dire comunque bisogna essere più responsabili per le proprie cose, per i propri interessi e appoggiarsi meno sugli Stati Uniti, perché quegli Stati Uniti che potrebbero essere ancora il leader del mondo dell'Ovest, come si chiamava una volta, del mondo delle democrazie, delle economie di mercato, essere almeno il primo inter pares, adesso si sta staccando, ritirando, o con questa decisione sul clima sta diventando quasi un paria, sta veramente, si sta chiamando fuori dal coro. Anche se però ancora non è chiaro qual è la dimensione, la forma e la forza di questo chiamarsi fuori. Ma secondo te quanto è profondo lo scontro tra la Merkel e Trump? La Merkel certamente quando è andato lì non è andato lì a baciare i piedi, ma ci ha messo la bandiera e ha detto noi abbiamo i propri interessi, ma anche non conviene agli Stati Uniti di essere più isolazionista o di essere meno legato alle vecchie alleanze. Ecco, ma quanto c'è di elettorale anche in questa posizione della Merkel? C'è anche qualcosa di elettorale, ma la Merkel in quello non cambia opinione per l'elezione, semplicemente quella Merkel alla quale è stato sempre detto che sta lì sopra sedere ai problemi, questa volta sembra anche far vedere una linea già fin dall'inizio delle elezioni, perché quando la Merkel ha mandato le sue congratulazioni alle elezioni di Trump ha scritto già che noi siamo legati a certi valori che ci accomunano in quel mondo. Ecco, dell'Ovest. Senti, si parla però oramai con chiarezza di una necessità di un esercito comune europeo, ma dovrebbe guidarlo la Germania? Lo dubito che lo guiderà la Germania. Chi lo guiderà allora? Intanto ci sarà secondo te questo esercito o no? Secondo me la strada è molto lunga, abbiamo cominciato con la Francia molto tempo fa a avere dei battaglioni comuni, ma certamente è una strada lunga, una strada lunga. Non si può avere un servizio di traduzione come a Bruxelles così, da ogni lingua all'altra così quando si sta in battaglia. È un po' difficile, certo. E quindi dici bisogna sapere il tedesco? Mi sembrerebbe così non una cosa sull'agenda dei tedeschi di avere un esercito a guida tedesca. No, il problema senti. È più quello che di avere 27 paesi con no, d'accordo, 27 d'accordo. Strutture militari che tante volte fanno lo stesso e così che sono costi inutili. Si buttano soldi. Senti, i tedeschi però hanno fatto pesanti tagli la difesa in questi anni, adesso hanno cambiato strategia. Cosa c'è sotto? Assolutamente, tutti pensavano di poter fare dei tagli pesanti, perché prima c'era una massa tedesca che era un pochino che era lì di fronte al nemico, alla cortina di ferro, e c'erano tanti panzer che dovevano così almeno creare una deterrenza. Certamente adesso questo nemico di una volta non c'è almeno più. In quella forma non c'è più, ecco. E non ci vuole così vecchi panzer. Senti. Ci vuole adesso elicotteri, aerei di trasporto. E quindi la Germania sta riconvertendo anche la sua modalità di armamento. Ma l'Italia conviene stare di più con la Germania o con gli Stati Uniti? L'Italia converrebbe stare più con l'Europa. Beh, naturalmente, però l'Europa è molto tedesca in questo momento. Ti do qualche numero, no? Perché, per esempio, la Germania, che si oppone alla politica di Trump, ha un saldo netto tra import e export con gli Stati Uniti di 49 miliardi di euro nel 2016. Quindi gli interessi della Germania prevalgono, non quelli dei partner europei, no? Ah, ma guardi, lì ci sono delle cose molto interessanti da dire su quello. Da un lato, così la Germania ha fatto molto di surplus, ma ha fatto anche con questi soldi ha fatto molti investimenti in tutti i paesi del mondo, soprattutto anche negli Stati Uniti. Secondo i dati OCSE, ha investito in 10 anni ha investito 50 miliardi di dollari negli Stati Uniti, creando posti di lavoro direttamente lì. Così ci sono tanti marchi tedeschi di automobili che vengono prodotti lì. Infatti mi pare che questa lotta sulle automobili ha prodotto, sia la radice dello scontro fra gli Stati Uniti e la Germania, o sbaglio? Questo è una cosa proprio del trumpismo, semplificando, che contiene un po' di ignoranza su dove vengono prodotte le cose, ma voglio dire, l'America ha un grande surplus del turismo, i tedeschi sono il secondo paese di deficit nel turismo. Senti, ma la Germania proseguirà con le politiche dell'austerità o no? La Germania non ha una politica di austerità, no. La Germania dice che non bisogna andare su una strada che ha portato la Grecia in crisi. Non c'è sempre la possibilità di aumentare sempre i deficit di debito. E questo, però lì, se uno va a vedere le banche tedesche, con l'importanza delle banche tedesche con il deficit e il debito della Grecia, lì insomma si entra in un ginepraio di questioni molto complesse. Senti, la Germania ha contribuito molto, un quarto di tutto questo salvataggio greco è stato garantito e pagato dalla Germania, 10% anche dall'Italia. Senti, ma la Germania, per chiudere, la Germania secondo te vorrebbe Weidemann alla Bundesbank al posto di Draghi al momento buono o no? Se si fa un passo verso una integrazione finanziaria in Europa, almeno un piccolo passo, ci sono molti sogni che secondo me non si avverranno, certamente bisognerà dare anche una garanzia a quelli paesi del nord che non si fidano di politici dell'Europa del sud, anche italiani, che dicono vogliamo altre regole, ma alle regole noi non seguiamo, le regole europee. Dipende se sono regole, le regole poi convengono sempre a qualcuno un po' più che agli altri, ecco, questo forse va a discuterlo, va bene, tutti. D'accordo, grazie Pillar. Mario, vedevo che c'è delle notizie. No, ci sono degli aggiornamenti importanti dall'Iran, perché pare adesso, da quello che sto seguendo, che ci sia un attacco molteplice e coordinato, un attacco terroristico, da una parte al mausoleo di Khomeini e dall'altra in Parlamento. In Parlamento, secondo le notizie che abbiamo da qua, ci sarebbero addirittura delle teste di cuoio e almeno 4 terroristi. Insomma, per l'Iran è qualcosa di pazzesco, anche perché si è votato da pochi giorni in Iran e c'è stata la conferma del presidente Rouhani, quindi sì. È una situazione molto delicata da seguire. Cioè, no, ma bisogna capire perché la vittoria di Rouhani era anche l'Iran moderato sì. E quindi un Iran che dialogante. Dialogante. Quindi dialogante. Bisogna capire che tipo di attacco è e da che cosa è eventualmente ispirato. Insomma, alla fine di questa notizia di aggiornamento, comunque, per chiudere, diciamo, Piller è stato abbastanza chiaro, no? Germania. Però io penso che sì, Germania, sono forti, però io penso che ci voglia molta Italia, ha ragione Spannaus, secondo me. Cioè, la difesa. interessi, cioè quello che la lezione della Libia è la lezione numero uno da imparare. E la difesa, l'altra, quella vera, fatta di eserciti, è il punto sul quale secondo me l'Europa continuerà a fare crack. Farà perché molta fatica ad arrivare davvero. Ma certo, ma la traduzione pratica è: chi mandiamo a morire? Perché questo è il punto, cioè non c'è altro. Certo, infatti abbiamo visto nella lotta al terrorismo, poi alla fine chi è andato sul terreno non boots, sono stati gli i famosi boots on the ground, esattamente. Alla fine è questa la guerra. Assolutamente. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms, pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Investi con Anima, il gruppo leader del risparmio gestito italiano. Mix 24. Allora, Pietrangelo, che ci fai ascoltare oggi? C'era tra noi un gioco d'azzardo, ma niente ormai, nel lungo sguardo. Spiega qualcosa, forse soltanto certe parole sembrano pianto. Perfetti sconosciuti innamorati, oggi in metropolitana, sconosciuti tra di loro, ognuno sconosciuto a se stesso, ciascuno distante rispetto all'altro e però tutti rapiti in un groviglio di sguardi e passi in avvicinamento. Un gioco tutto d'azzardo. Ha chiamato Jacopo Ortis, ha riconosciuto Maddalena nel convoglio, ma lei non ha riconosciuto lui. Ed è stata lei a chiamare, a volere questo brano, per lui, con un messaggio. C'era tra noi un gioco d'azzardo. Io parlo di me che ho goduto, di me che ho amato e che ho perduto. Allora, c'è qualche aggiornamento sull'Iran? Sì, ci sono degli spari in centro a Teheran, quindi non è solo dentro il Parlamento. Probabilmente un terrorista è riuscito a uscire dal Parlamento, sono molti di più di quanto... Cioè non si sa quanti sono. No, perché prima hanno detto uno, poi tre, adesso qualcuno dice addirittura otto. Le notizie sono molto frammentarie. Vabbè. E ovviamente bisogna aspettare. Noi teniamo, aspettare. Tu segui, intanto facciamo la tua bolla. Esatto. God Save the Queen. E andiamo nel Regno Unito, si vota, domani è il giorno giusto per decidere che Parlamento ci sarà e farà nel Regno Unito, Giovanni. Già il fatto che si voti di giovedì segna la differenza tra noi e loro, a mio avviso. Da noi si discute se votare in estate, in autunno, certamente sempre la domenica, lì a metà settimana vanno, votano, scelgono il Parlamento e tanti saluti. E questo è uno. Chi vince? Perché tutti si chiedono questo, ovviamente. Il Paul Treacle del Financial Times dice che vince May. Quindi vincono i Tories, fa la media di tutti i sondaggi e a oggi, stamattina, per un pelo o dava, quanto? No, beh, largo, perché sono sei punti e sei punti consentono anche di avere una maggioranza. E naturalmente va sempre confrontato col fatto che la corsa partiva con 20 punti di vantaggio è stata un'infelice campagna elettorale. Sì, la May l'ha sbagliata completamente. Se May vince, impatto, vero, poi alla fine, se May vince la Brexit sarà hard e abbastanza veloce alla fine rispetto ai tempi che erano previsti, e se perde cambia tutto. Siamo in fase di re-Brexit, cioè, re-Brexit. Si torna indietro, perché allora si innesca di nuovo la richiesta molto forte per un nuovo referendum e così via. Se la May non dovesse avere la maggioranza, dovesse fare coalizione con i liberali ad altri, e anche lì c'è un problema per la Brexit, perché potrebbero, anzi sicuramente la trattativa diventa più complicata, sì, e chiederanno un referendum di nuovo, vedrai. Quindi vediamo, è molto interessante per noi tutto questo, certo. Salamino, torna la Prima Repubblica, torna la Balena Bianca. Col sistema proporzionale si sveglia l'Italia dei campanili, delle distinte identità e dei territori, il cui mare grande sarà il popolarismo dei vecchi fusti, da Ciriaco De Mita a Romano Prodi, da Rosi Bindi a Paolo Cirino Pomicino, e sarà dappertutto. Torna lo scudo crociato, torna Libertas, ma qualcosa si perde. Io cerco la tettina, tettina. Si perde giusto Denis Verdini, il traghettatore caronte tra ciò che è Matteo Renzi e ciò che è, che fu e che sarà Silvio Berlusconi. Torna perfino il pentapartito e giusto lui, con Renzi che scalcia, si ritrova a cantare così. Se stiamo insieme ci sarà un perché. No, no, no, no, no, no, no, no. Canta questa. Se mi lasci non vale. Se lo lascia non vale. Torna la Balena Bianca e arriva finalmente ciò che non c'è mai stata, la famosa riforma elettorale. Chi me pigliava francese, chi me pigliava spagnola. Non è però francese e non è nemmeno spagnola, ma c'è dunque l'eterno ritorno elettorale, e tutto questo ritorno è Deutsch, tedesco. Ich werde auf Deutsch sprechen, weil vielleicht, wenn ich auf Deutsch spreche, er kann etwas verstehen. Il modello scelto per le urne è quello germanico, e Paolo Cirino Pomicino, richiamato in servizio da Ciriaco De Mita, giustamente si chiede, oibò, perché a Berlino non esiste un partito dal nome Forza Germania? Deutschland über alles, tutto si squaglia, ma qualcosa quaglia. A Napoli, per ordine di Nusco, capitale della Magna Grecia, nonché polis e terra della Balena Bianca, sotto lo sguardo vigile di De Mita si sono riuniti i democristiani d'antico pelo. Pregustano il ritorno dei bei tempi, aggiornando, oltre ai combattenti reduci, dunque oltre ai Lorenzo Cesa, Marco Follini, Bruno Tabacci, un vero e proprio tridente invincibile di moderati, con Raffaele Fitto, Stefano Parisi, non Denis Verdini, ma Angelino Alfano, sì. Il sempre maidomo Giuseppe Alberto Falci, cronista numero uno, raccoglie per la stampa una dichiarazione impegnativa di Gerardo Bianco. Il popolarismo ha un potenziale enorme, ma servirebbe un Macron italiano. Ma insomma, ragioniamo. Il Macron italiano già c'è, e appunto Alfano, ed è così proiettato verso il sicuro successo da averla avuta già cantata chiara dai suoi sostenitori, giusto con Proietti. Chi mago cerca? Chi mago cerca? Chi mago cerca? Chi mago cerca? Vabbè. Vabbè, Pietrangelo, sempre lui. Senti, sì. Ci sono aggiornamenti? Sì, allora l'agenzia IRNA, adesso sono riuscito a collegarmi con una fonte un po' più, diciamo, seria. Sì, è un attacco multiplo. Dentro il Parlamento ci sono almeno 4 terroristi. Armati di Kalashnikov e pistola, da quel che si dice, c'è almeno un morto e sono dentro. Sono dentro. Barricati dentro? Sì, questo è quello che dice l'IRNA, quindi insomma. È l'agenzia della Repubblica Islamica, quindi certo. Tendo a crederci. C'è in questo credere. Punto. Sì, parecchio. Però, insomma, è strano. È molto strana, sì, questa cosa. Sì, davvero. Cioè, però, discorso che facevamo ieri su Doha, sul rovesciamento di tutte le posizioni. Uno connette i puntini. Uno connette i puntini e qualche cosa affiora. Sì. Insomma, è quello no? che facciamo da 4 anni. Ci proviamo. Connettiamo i puntini. Vabbè, adesso per fortuna andremo in vacanza per sempre. Per sempre. Allora, intanto bolla. We don't need no education. Allora, Giovanni, another brick in the wall, ma stavolta la cosa è divertente, parliamo di Trump, è che lui non ci mette un mattone sul muro, ma ci mette un pannello solare. Pare che stia studiando, no, è sicuro perché l'ho letto sul Wall Street Journal, che Trump abbia proposto una nuova soluzione per rendere il muro meno dispendioso e soprattutto più redditizio, da buon businessman qual è. Ha detto benissimo, il Messico non vuole pagare il muro, non c'è problema, lo trasformiamo e lo dotiamo di pannelli solari per la produzione di energia. La cosa va da sé, non passa inosservata, il muro è lungo, esiste, fu iniziato da Clinton, fu votato, fu proseguito da Bush, è stato votato l'ampliamento, ricordo, dei senatori Clinton, Hillary e Obama, ex presidente degli Stati Uniti, e dunque il problema c'è. Vediamo se fa passare veramente la soluzione energetica solare per il muro, sarebbe una trovata assai divertente da commentare, però... divertente veramente questa. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta Mix 24. Ho sempre considerato Scorzeni un personaggio costruito dalla storiografia, la cui notorietà è dovuta solo all'aver partecipato, apparentemente per la fiducia che Hitler riponeva in lui, ad azioni riguardanti importanti personalità politiche dell'epoca come Mussolini, Von Horthy e Vichy. È per questo che è passato alla storia. Per alcuni è il pupillo di Hitler, per altri è una spia doppiogiochista al servizio non solo dei tedeschi, ma anche del Mossad. È Otto Skorzeny, un ex ufficiale delle SS che nel luglio del 1943 viene convocato da Hitler al suo quartier generale per un'operazione speciale chiamata Operazione Quercia, con un obiettivo: liberare e portare in salvo Benito Mussolini, imprigionato a Campo Imperatore sul Gran Sasso per ordine di Badoglio. Volato in Italia travestito da aviatore, Skorzeny compie ricerche che sembrano vane, poi tenta il tutto per tutto e riesce a intercettare Mussolini. Mi rivolsi a lui dicendo: «Duce, il Führer mi ha mandato qui per liberarvi». Mussolini era molto agitato, ma mi abbracciò e mi disse: «Sapevo che il mio amico Adolf Hitler non mi avrebbe lasciato solo». Numerose le altre imprese che gli vengono attribuite, da un attentato a Stalin al rapimento di Churchill, al furto dell'oro di Martin Bormann, bottino accumulato nei campi di concentramento. Ma per tutto ciò Otto Skorzeny non ha lasciato prove. Elena da Napoli ci scrive. Mi diceva mia nonna: chi si loda si imbroda, però questa volta un pochino magari fa piacere, perché dice: perché mi non l'hai dichiarato, andremo in vacanza per sempre, non fatemi preoccupare, dite che Mix 24 chiude, signora, purtroppo è chiude, la vita va avanti, alla fine di giugno chiude e poi dopo ci saranno delle cose migliori di queste. Intanto, Mario, c'è ancora una bolla? Allora, tra le cose migliori, più prima della bolla, un altro aggiornamento, sempre dell'agenzia IRNA, che dice che il Parlamento è sotto controllo, c'è un arrestato tra i terroristi, e ci sono 3 feriti sicuramente, è in corso un vertice di sicurezza e al mausoleo di Khomeini è confermato già da prima che c'è stato un attacco suicida. Quindi vabbè, però insomma è una cosa che sta non rovesciano il governo, non mi pare, però certo che quando succedono queste cose in Iran non depone bene a favore della stabilità del Medio Oriente. Infatti abbiamo detto che collegando tutte le cose che abbiamo detto in questi giorni e in queste settimane, si capisce che il quadro è in grande movimento tutti i fronti, e lo scontro tra sunniti e sciiti e tra fazioni sciite e fazioni sunnite stanno creando un'instabilità molto grande. C'è ancora una bolla che Maria? Segnalo una cosa che ho letto stamattina, fa piacere solo agli ascoltatori sentire che cosa, da dove poi traiamo tutte le nostre visioni sulla contemporaneità. Segnalo un pezzo bellissimo sul Wall Street Journal oggi sul fatto che finalmente è arrivato un mercato globale del gas liquido. Questo il popolo non lo valuta, ma è un cambiamento radicale, sarà una rivoluzione nella politica energetica di tutto il mondo. Pensa che la Cina, l'abbiamo detto una volta qua, triplicherà la sua domanda e offerta, e questo legato al cambiamento climatico, siccome il gas è pulito. Cambierà tutta la discussione sull'uscita dal trattato climatico. Ne parleremo ancora fino alla fine di giugno. Adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA, settembre 2016. Il ventilatore non raffredda gli anziani esposti a caldo ed umidità estrema. Caldo ed umidità elevata possono essere molto dannosi per i vecchi, e sappiamo che il problema fondamentale è quello della disidratazione. Allora spesso i vecchi usano il ventilatore, qualche volta per ragioni di tipo economico, l'aria condizionata costa, qualche volta c'è una sorta di pregiudizio nei confronti proprio dell'aria condizionata. Allora, per capire se il ventilatore aiuta, sono stati testati 9 adulti anziani, metà media 68 anni, 3 uomini e 6 donne, seduti in una stanza dove c'erano 42 gradi, tenuti in pantaloncini per oltre 2 ore. L'umidità partiva al 30% e veniva aumentata del 2% ogni 5 minuti per arrivare fino al 70% dopo le 2 ore di seduta. Bene, la frequenza cardiaca passa da 75 a 100 senza il ventilatore e a 104 quando invece veniva permesso di utilizzare il ventilatore. E la temperatura interna passa da 36,3 a 37,6 senza ventilatore e 37,8 con il ventilatore. Quindi il ventilatore non fa nulla, anzi un pochino peggiora a giudicare dai numeri. Che i medici lo dicano ai nostri anziani, e che quindi, se possibile, utilizzate con moderazione, nel senso di non fare quelle robe da congelamento, l'aria condizionata, soprattutto se avete la possibilità economica di farlo. E per chiudere oggi, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi segue il pensiero di quell'innamoramento che fu, di chi si conosce bene e sinceramente. Giovanotti, Io ti cercherò. Com'è strano incontrarti di sera in mezzo alla gente, salutarci come due vecchi amici, ehi, ciao, come stai?